Noi in questo momento abbiamo un ospite al telefono, non a caso il frontman Matteo Gabbianelli del gruppo Alternative Rock Italiano. Cazzo, spero di averlo pronunciato bene, ma vediamo se riusciamo a raggiungere Matteo. Ciao Matteo. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno. Allora, prima domanda: come è nato il vostro gruppo? Ma il gruppo è nato tanti anni fa. Io suono da tanti anni, dopo varie esperienze in gruppi dove non ero io, diciamo, il leader della band, ho deciso di fare un progetto che in qualche modo potessi controllare, nel senso che, sai, le cose si sfasciano sempre, no? Finché tu non hai la voce in capitolo, ecco. Quindi ho cercato musicisti nella scena romana, nella scena indie romana, e così ho conosciuto i primi componenti. Adesso, dopo varie diciamo vicissitudini di line up, sono io il cantante, poi c'è Brian Rienta alla chitarra, Luca Lepore al basso e Bernardino Fontani alla batteria. Perfetto, quindi la formazione Cazzo esiste, diciamo, dal 2006 e nel frattempo avete lavorato moltissimo. Adesso è uscito il vostro nuovo album che si intitola Che effetto fa? Differenze di questo lavoro con i lavori precedenti? Ma abbiamo abbandonato un po' le sonorità rock per acquisire più elettro, se vuoi. Quindi abbiamo messo pesantemente delle parti di synth, che però dal vivo faremo con la chitarra MIDI. Quindi dal vivo non avremo un tastierista, ma avremo il nostro chitarrista Brian, che suona sia le chitarre elettriche che le chitarre MIDI. La chitarra MIDI è una cosa che ti permette di far suonare la chitarra come un synth, quindi come le trombe, il pianoforte, eccetera, tutto dalla chitarra. In questo disco c'è una forte componente appunto elettro e le canzoni sono fotografie di momenti, racconti, sensazioni, insomma sono 10 ferette che raccontano momenti, o che ognuna di queste racconta un momento particolare. Nel corso degli anni voi avete anche accompagnato, oltre a fare il vostro percorso, chiaramente altri artisti abbastanza famosi, ma quali sono le vostre ispirazioni principali? Ma guarda, allora sicuramente tutto parte dai Beatles. Poi io con la voce ho imparato a cantare con i Deep Purple, con gli Iron Maiden, per poi passare a Stevie Wonder. Tra i cantatori italiani mi piace tantissimo Rino Gaetano, Lucio Dalla, Lucio Battisti, insomma questi sono i punti di riferimento. E poi c'è tutta la musica black, funk anni 70, che soprattutto in questo disco si sente molto. Infatti le batterie e i bassi hanno un suono grosso, asciutto, proprio che richiama proprio gli anni 70. Senti, ma una curiosità, ma il nome della vostra band da cosa deriva? Perché sappiamo che si scrive Cuzzo, ma si legge Cazzo, no? Sì, ma infatti, ma sento mi piace perché lo ripeti senza nessuna remora, e questa è una cosa Beh, è buona. una pronuncia dopo tutto. Poi è anche inserito nel Esatto. vocabolario italiano come parola scritta proprio con le lettere italiane, diciamo. Ma allora, il nostro nome, per chi non ci conosce, si scrive Cuzzo, qui uno lo leggerebbe Cusso, ma questo era il modo che io avevo di scrivere le parolacce sui banchi, quindi io questo Cuzzo, appunto, invece di leggerlo Cusso, lo facevo diventare all'americana, la U la facevo diventare A, e quindi Cazzo. Storia Un po' effettivamente mi piace fare interessante. queste cose, mi piace fare questi, sono un po' così provocatorio, polemico, cioè mi piace fare le cose che non si devono fare. A proposito, nei testi dei brani che avete scritto nel corso degli anni, magari anche in particolar modo in questo ultimo album, di che cosa parlate? Allora, guarda, la nostra musica è sempre stata un gioco, cioè uno scontro, uno ossimoro tra una musica gioiosa, solare, piena di verve e dei testi invece spesso scuri, mortiferi, disfattisti, che se li leggi sembrano veramente epitaffi, insomma. Però invece appunto la parte testuale veniva smorzata e smussata dalla musica, che rendeva tutto più frizzante. Il brano che avete passato prima, Elisa, che è quello con cui siamo andati a Sanremo, era un gioco, non rientra dentro questo specchietto che ti ho detto, era semplicemente un gioco, insomma, che prendeva un po' in giro le canzoni d'amore sanremesi, appunto. Però in questo disco ho voluto un po' più avvicinare la musica e il testo, quindi la musica è un po' più malinconica, insomma, c'ha un po' più di agrodolce dentro, e i testi sono più concreti, meno lucubrazioni esistenziali, più appunto, come dicevo prima, fotografie, racconti, e comunque c'è anche un po' più di possibilismo. Inoltre ci sono due ballate, due canzoni d'amore che sono una novità per noi. Ho voluto dare anche, far vedere anche un altro aspetto di questa band, per non essere solo catalogati come quelli che scherzano, che poi non è così, insomma, ecco. Certo, ma invece spiegaci un attimo come funzionerà il tour di presentazione di quest'album, quali sono le tappe, se suonerete a Bologna, dove, quando? Allora, a Bologna non suoneremo, suoneremo a Modena però, all'Host di Modena, però non mi ricordo il giorno, non so se voi ci avete il 3 davanti. Noi sappiamo che è il 3. Ok, allora io, grazie, così verrò. Prego. Il 3 novembre saremo all'Host, quindi la data più vicina è questa. Poi non so se capiteremo anche a Bologna. Siamo stati alla Feltrinelli circa un mesetto fa, abbiamo presentato il disco lì con un acustico. Ah, ok. E quindi insomma siamo in tour in tutta Italia, fino a gennaio abbiamo già date, quindi domani saremo a Bergamo al Link Club, dopodomani alla Casa di M in provincia di Viterbo e sabato all'Art Club di Fermo. Benissimo, allora sono tutte le altre date. Benissimo, allora se siete in zona mi raccomando non perdetevi il concerto di sabato 3 novembre all'Off di Modena dei Cazzo. Noi ringraziamo innanzitutto Matteo Gabbianelli per il contributo degli ultimi minuti e vi lasciamo a questo punto a un brano dell'ultimo album, Che effetto fa. Grazie mille Matteo. Grazie Matteo.